era partito, pure di mettere il microfono amplificato a parte. Però finali non ne ho mai fatte gara. Oh, che siamo due attorno, non me lo ricordo che cosa era già. Però non mi ricordo se erano le finali o il modulatore, ma qualcosa era, non lo so. Quello che io è nuovo di pacca, nuovo di pacca, c'è ancora tutta la ceralacca nel, perché l'avevo aperto per vedere come l'ha fatto dentro, c'è ancora la ceralacca nei cosi, nei trimmer, nelle resistenze variabili. L'ho comprato da Danilo, nuovo, infatti non lo va nessuno. Oh, è una potenza su radio, va bene. Questo è 140, Ehi, ma vanno bene questi apparecchi, tranne queste catattine, una resistenza, una cosa che può partire, ma una roba di consumo, ma sono apparecchi che sono freni, tu pensa dagli anni che ci sono. Beh, normale, anche quelle sono radio vecchie, non è che sono radio nuove, quindi è così, va bene, datevi in due minuti, da, sono qua comunque, riprendi anche tu. Saranno vecchie come cosa, però sono sempre radio che ti riempiono l'occhio quando le guardi, a me perlomeno fa così, a me mi piace più il coso, il Galaxy. Bello, bello, infatti io ho il Galaxy, ce l'ho attaccato, gli altri sono più dentro l'armadio. Il Galaxy è molto bello anche perché è completo. Quando lo uso mi piace usarlo perché ovunque vai c'è tutto, capite? Frequenzimetro, il mio è perfetto frequenzimetro, magari di perfetto. A zero, la decimale, non la peggia, proprio di fine corsa è a zero, sia quello interno che quello esterno, proprio veramente preciso, veramente molto bello. Anche il Royce è bello quando è acceso, va bello anche il Royce, però il Royce rimane più rumoroso, rimane probabilmente partito qualche cosa, quando lo accendo fa tipo ronzio. Sarà trasformato. Può darsi. No, ma io l'ho provato, lui mette che a 12 fosse, l'ho provato anche a 12, lo fa anche a 12 sicuramente, ma lo fa poco, ma appena, mi non lasciare. Però mi è un po' fastidioso questo rumore che fa, dice che si sente anche quando fa. Perché scorreggia? Sono un radio di una certa età, non è che... Questo va adulturato, mi c'ha l'orologio, c'è tutto qua. Se metti l'orologio, puoi mettere i canali. Cappa, chi vuole entrare? Ho sentito qualcuno. Boh, non lo so, ho sentito qualcuno già, ma non ho sentito nessuno. No. Perché l'ho detto perché scorreggia, ma è tutto qua. Cappa, no, allora è qualcuno che fumendi appena rigorgia, ma non ti fa di nulla. Ora, così già va un po' meglio. Otto, l'altro ieri vicino a casa tua c'era un uomo anziano, non so se l'hai mai visto, che c'ha un cane bianco, sembra che ti può subire un maremmano così, che è un bel anziano anche il cane. E si è fermato la signora che sta, ascolti, ma quanti anni c'ha questo cane? Indovina quanti anni aveva, 26 anni. Ciao vecchietto, vecchietto, io cani che hanno durato 26 anni non ne avevo mai visti. Può capitare la rarità. Ti sto dicendo che massimo che l'ho visto 21 anni ce l'aveva uno che abitava vicino a casa, che poi alla fine lo portava in braccio a fare i bisogni perché non ce la faceva manco a camminare, lo metteva in terra, faceva il bisogno, si sporcava tutto perché si attaccava a terra, non stava in piedi con le zampe. Marino, quando sono così grandi d'età è un macello. L'hanno trovato morto in casa, sono usciti con la moglie, ma adesso sono tornati in casa di attichino, la moglie. Era bello, ma era di razza, era un shih tzu. E quella bestiaccia come sta? tu, quel Monello. Ah, è Monello, bravo. Cioè, sta bene, qua vicino a me. È dormito qua vicino a me. Sto aspettando che lo porti giù, alle 8 che lo devo portare. Se lo trovo in un quarto, tra poco chiudo. Lo porto giù a pascolare un po'. Se lo trovo in un quarto, sono le 18.47. Sono le 7 meno un quarto. Ah, le 7? Ah. Vabbè, sono l'albino. Ho visto le 8 meno un quarto. Allora ancora presto. Andava. Se tu non c'è più problema, ma di grazie a lui, invece io cazzo mi tocca sempre andare. Vabbè che già ti fa socializzare con le persone. Hai conosciuto uno che c'ha un barboncino, una tipa che è in gamba. No, ma io c'ho gli altri vicini di casa, c'hanno tutti il cane, già escono la sera, non è estate, però d'inverno li fanno uscire nel giardino, d'estate già escono, quindi no, non è un problema. Magari. C'è questo barboncino qua, se lo vedi correndo, una saetta, cazzo, buca, tu pure. Filippo ormai non è che corre assai, no? 10 anni c'ha quasi. Che grandetto Filippo, va. Te l'ho detto, l'hai sentito che cosa ho detto? Hanno fermato questo signore, c'era un cane anziano, 26 anni aveva, io non ho mai visto un cane di 26 anni. Ma è meticcio, anni di razza. Non è che durano molto, no, già, e soprattutto i morosi durano poco, anzi il mio è già troppo, sono massimo 8 anni. 8-9 anni, praticamente questo qui era tipo un maremmano come altezza e grossezza, poi c'aveva il muso tipo Schnauzer, ce l'è presente? Sì, su che fa Robizzetto. Esatto, e camminava piano piano come il padrone, erano tutti e due vecchi, facevano anche tenerezza. Questa signora si è fermata, gli ha detto, quanti anni c'ha questo cane? Ce ne ha tanti di anni anche lui, gli ha detto. E quanti ne ha? 26, la bellezza di 26 anni. 26 anni di un cane, sono un bel, parecchio. Vabbè. A volte è così, e poi di altro. No, io guarda, la verità, non avrei il tempo di tenere un cane. Ho tutto uno spazio e come faccio? E poi io sono di Ghitti che quando arriva il periodo, 1, 2, 3, aiuto. Cerchiamo qualche posto a rilassarci. E adesso, quando arriverà il caldo, qualche giorno, sono andato a Olbia, sono andato a Cagliari, sono andato a Siricqua, ne ho girato posti. E quando arriva quel periodo lì, 1, 2, 3, aiuto. Ma viaggio organizzato? No, li organizziamo noi, io e Sara. Fai bene. Io, vabbè, quando c'erano quei viaggi low cost in aereo, io ogni settimana ero fuori, Pisa, Roma, andavo sempre, poi in giornata stesso tornavo, la mattina alle 7 partivo, arrivavo verso le 10 a Sassari, e sembrava una cosa così strana, cazzo. Io parto dalle 7, ma intendo a me, dal sabato sera parto e la domenica ritorno. Sono andato già 2 o 3 volte a Olbia pure da mia sorella. Io cioè, non abbiamo uffici, non abbiamo niente. Io quando mi sale devo andare. E cosa faccio? Fai bene, fai bene, si vive una volta sola. A Monica Olbia. Cappa, ci sono già andato un bel po' di volte. Si è sposata lì? Non è sposata, convive con un ragazzo, c'ha 2 bambine, c'ha. Ah, che più passano, eh. Tempo passa, caspita. È grande, quanti anni c'ha adesso voi? 2 anni più piccola di me. Ma che piccola di te? Sono più grande. No, Monica è più piccola di me, io sono più grande. Cioè, tu conta 2 anni, lei è dell'86, io sono dell'84. 2 anni più minore. Cavagava, vabbè, dai. E fai bene a girare a tu. Tanto, ma si vede. perché avevi di una... E cosa devo fare? Non abbiamo figli, non abbiamo niente. Io quando scatta quel periodo devo andare. Io sono andato in parecchi posti, mi sono andato. Anch'io gli ho girato, ma io ho girato tutta l'Italia quasi. Non ho possibilità con sto cazzo di lavoro, che faccio? Se no già è uscito pure, avrei preso le... avrei fatto il biglietto e andato pure a Roma. E io ne ho girato, tra l'altro con quei viaggi low cost, vabbè, prima abbiamo girato anche senza viaggi low cost, però quando c'era ultimamente i viaggi low cost, abbiamo preso biglietti anche per 25 centesimi e c'è la gente che nello stesso aereo ha pagato 150 euro. Già lo so, già. No, io quando arriva quel periodo, io devo andare. Finito. Adesso siamo a casa e tutte cose. E purtroppo c'è freddo e cosa. Magari arrivi in un caso. Vabbè, poi arriveranno anche i figli, dai, quindi approfittare adesso. Cappa, cappa. I figli, dove arrivano? Con il freddo, Ah, con il freddo, Antonio Gigli Reggia. Purtroppo l'anno scorso c'è stato, ma poverino, non ha campato, poverino. Vabbè, Antonio, figurati a me, io ne avrei avuto uno adesso di... 28 anni, 28, 30, era di 35, non mi ricordo, forse 25, 26, 26, 27 anni, aveva avuto il maschio, anche il mio è andata bene. Vabbè, sono cose che succedono. Sì, Arturo, mia moglie ne ha perso due, quindi cosa vuol dire? Poi non ha trovato, non vuol dire nulla. Bisogna vedere se è una cosa morale, che cosa è, basta andare da un ginecologo e si fa controllare, perché bisogna vedere se è una questione ormonale o che cosa sia, magari può essere anche uno sforzo, una cosa che ha fatto, che non ha fatto. Qualche maledizione era, vabbè, pazienza dai, si campa lo stesso. Ma infatti non bisogna fare una tragedia. Cla, sento delle voci sottofondo, tu le sì. Eia, propagazione spagnola. Già ne tengo pure io, ya, mi do assillente. In FM sono. Ah, ma dico, faccio corrugare, dico. Sono io sento, li sento chiari, però bassi. E in FM sono, si sentono sotto quando moduli tu, Antonio. No, non sono gli stessi. Il mio manco si muove, figurati. Lucia c'ha del gorra, vai. Bene, mi sentite la M, ed è un FM, volevo dire. Perfetto, Artù. Aspetta un attimino che li facciamo chiamata, ma se ci sento. Attento, mio hermano, del Vascuciano, isola della Sardinia, adelante per un comprendido. Attento, mio hermano, del Vascuciano, isola della Sardinia, Italia, che va chiamando. Ha detto che domani mattina già ti porta i pesci. Ah, io passate in AM, io non mi piace l'FM a me. Quando arrivo in FM? Non ho capito perché non segni il segnale. Dove? Da te? Ma col mio. Ma cosa? Ah, boh. Sai, così il radio. Boh, cosa ne so. Vabbè, dai, passiamo in AM. E io? No, anche il mio, quel modello lì è così. Non lo so perché, boh. K, bene, mi senti in modulazione? Ehi, una bomba. Ehi, a K, da, mamma che funziona. Dai, passiamo la M. Ehi, ok, funziona. Allora, se faccio a te. Hola, chicos. È più chiara la voce. Più forte, no, più chiara. È chiara, è molto chiara anche in FM, ma in M rimbomba un bel. K, va bene, sì. E mi rimane a famoscare il segnale. Sì, si attacco l'altra radio, sicuramente sì. Ma non ha già compreso una cosa che non è niente lo segnale, boh. Non lo so, anche la mia te è così. Bisogna che mi informo, vabbè. Boh, o c'è qualche tasto da toccare? Anche la mia è così, ti ho detto. Mi informerò, a vedere, mi informerò, faccio sapere. Mi sto ricoglionendo a casa, non si può andare lungo, cazzo, con questo freddo, con questo gofio di merda. Ascolta, ma avete sentito che cosa fa questo Omicron, come cazzo si chiama, il nuovo virus che c'è? Ti fa venire la paralisi del sonno, lo sai? Cazzo, muori lo sonno? No, allora praticamente ti si paralizzano gli arti per 3-4 minuti, però nel momento ti spaventi perché tu sei sveglio ma gli arti non ti funzionano. Cazzo, me lo cerco da prendere pure. E guardate cos'è Anguiuppa. Anche che fatto. Immaginate, tu sei travagliente di notte e ti viene chissà zicco per cazzo, rimani cacciato, rimani, boh, non si muove più nulla. Cosa rete già? Oh, yeah. Dice che si bloccano proprio gli arti. Ho letto su internet stasera la nuova, il nuovo cosa che fa il virus. Adesso ne stanno sulla scoperta un'altra ancora di virus. Insomma, non riusciamo più da chi si ammetta. E questo qua dice che è un bel pericoloso. Ah, lei siete un poco di cazzate in muro. Vabbè, tanto ognuno dice la sua comunque. Se è così. Qualcosa c'è anche, perché se la gente sta male muore, qualche cosa c'è di sicuro. Che poi questo virus sia uscito dal laboratorio, sia uscito da qualsiasi posto, sia nell'aria, che cosa però c'è? Perché se muore la gente, se la gente cazzo sta ricoverata in ospedale, eccetera, eccetera, tutti gli ospedali pieni, qualche cosa c'è, se poi l'ha messo l'uomo in giro, o chi l'ha messo, questo non te lo so dire, però il virus c'è, perché se la gente sta male, io ho visto la mia ex moglie come stava l'altro giorno, non riusciva manco a parlare. Che cosa vuoi che non anda? E bisogna avere seguito che cazzo cosa puro me. Qualcosa c'è. Cosa che comunque non mi piace stare più in giro. Io quando rientro e non lavoro, non esco, non sto più uscendo molto da casa. Perché sei stanco, è normale. No, non mi piace stare in giro. Io invece sono il contrario di te. No, sarà che sto con troppi ore, cazzo, in giro, no. E mi piglia rugoso, mi piglia. No, non lo so. Sto parlando, aspetta. Buonasera, ciao Gianni. Ui, ebbè, ciao. Ciao già, per favore, dammi un controllo, da così, guarda un po'. Vedi? E io provo, 9,15. Andare, guarda un attimino se è incrementato la cosina. 9,25. Ah, va bene, Carlo, allora glielo lasciamo. Ma dove sei? In baracca. Eglia, ciao Claudio. Qua fai da 7 a 9. E poi un container, non la baracca. Dove sei della baracca? Dove è questa baracca? Quella che ti ha fatto la parte. Non è fatta, è già costruita questa qua, è una tipo la cella frigo già, cioè è presente, cosa ti posso dire, quelle celle frigo che usano i camion, però questa qua è un po' più maggiore, diciamo, più grossa di combinazione. Si sente l'effetto camera, questo sì, però va bene. Quello c'è. Kappa. Ti hai fatto la stazione lì? Questa c'è da quando ho messo questo container qua, ho subito piazzato il Seat SSB, un 4 watt e adesso gli ho messo un 747. Ah, va bene, sì. 747 è un bel dialetto, non scherza, non fa distorcere, va bene. Oh, arrivo subito, ma va benissimo, sì, non c'è problema. Hai agito barracca, dai. Non farmi capire, tu hai piegato tutto, vabbè. Tu carichi bene, la 7 a 9 è facile. Ah, io lo so, perché c'è da contare dove mettiamo le salsicce e tutto cazzo. Sono tutto io. E non mi va poi cos'è? Tu non ci devi nascondere. Niente, dai, ero di passaggio qua che stavo facendo l'ultima film in cattura e poi domani, anzi no, domani no, domani faccio asciugare e dopo domani appendo qua. Gappa, gappa, ricordati di me, due nascere. Ma quali sono familiari? Beh, familiari. E tu sono familiari, so, ah, vediamo. Ehi, vabbè, li accentiamo per telefono, riprendi già un secondo che faccio uscire. Ma sì, cosa è? Ciao. Aspetta, vai, facciamo questo rotente, io te le apro la porta a farle fare la piscia. Filippo piccolino! Mimi, neanche un Filippo, chi è? Le voci non le conosce molto. Si intende la voce di Massimiliano e sa di fare la Lecce. Mandalo qua che facciamo la salsiccia, io la giornata tu deccio. Ehi, sono da là anche la buonvasa, artista. È vecchietta, cicchietta, no, non mi ricordo, ti vuole fare la salsiccia. Dice, portamela, per Natale, portamela che me la mangio, tanto è bello di bocco. Oh sì, ma funziona come c'è la figa oppure no? Sì, secondo io sì, ma non ce n'è bisogno, diciamo, dai, perché è una temperatura stabile che serve a me. Però quando fa molto caldo basta attivare un mini condizionatore che c'è e di umidificatore incorporato e fa la temperatura impostata. Ah ecco, quindi se siete stati lì dentro fa fresco, poi fate il fresco. A voglia. Che appagato, e già va bene, dai. Andrà bene, andrà bene. Via. E con che apparecchio stai uscendo da lì? Te l'ho detto già, ho un Seat SSB, quello 4 watt. Ah, di quelli base? No, no, di quelli veicolari, di quelli... Guarda che forse ce ne hai avuto anche tu questo qua, che ha la pellicola che sembra legno. Io la Seat se l'ho avuto, però base, capito? No, questo sarà, se no, esagerando di 30 centimetri, 25 centimetri per... 7-8 di altezza. E già va bene, dai. In prova ce l'ha. No, no, questo me l'avevo regalato un po' di tempo fa. Ah, ecco. Oh, yeah. Io già ho il coso, il Luis, che va molto bene, è bello come apparecchio. Sì, scusa, ciao Antonio, non ti ho salutato. Sì, l'ho avuto il Luis, ho avuto l'altro, sempre modello base, della Fayette, con gli strumenti, un seminario tipo diciamo del Luis, di quegli anni lì. Ciao Tino, ti ha salutato? Sì, ciao Antonio, ciao. Appagata, Dio che ti sento forte. Sì, vabbè, te l'ho detto che avevo la Grand Prix, quella basta mattina. Mi sono entrato per far sentire un po' a Gianni, dai, come andava. Va bene, dai, vi saluto al limite, se coincide riprendo dopo da casa. Che te ne hai piazzato qui, la Grand Prix? Sì, la Grand Prix. Che ti ne ha fatto la Grand Prix? Da un amico che ce l'aveva conservata e vabbè, nuova e busta, nuova. Io guarda, l'ho avuta a Sacro Cuore quando abitavo da mamma, e c'avevo la Grand Prix, quella della Rem, che aveva radiali, il vetro resina, l'antenna era però in alluminio. Ma se quando arrivavo a Ponte, all'Alghero, a Porto Ottone, riuscivo ben bene, solo che faceva tipo guai. Quello di sotto che aveva avuto l'incidente era sempre attaccato al televisore, la moglie veniva a brontolare sempre a casa. Vabbè, io di questi problemi non ne ho, perché a parte che è distante da me, però è bassa anche, è attaccata al tetto, diciamo, è all'altezza dello stesso del tetto del container, vorrebbe alzata, perché il palo l'ho appoggiato da terra sino a superare appena il tetto, diciamo, capito? Quindi mettendola più su dovrebbe rendere ancora di più. Ciao Eugenio, anche tu mi senti da qua? Certo che ti sento, chi sei? Gianfranco la scimmia, ciao Eugenio. Ciao Franco, buonasera, sì che ti sento. Che ritosto che sei, che... Vabbè, lo sai cos'è, che ho cabina esterna e le modulazioni le sento io per accesso, me lo fai l'occhio, cioè l'orecchio. Vabbè, ciao Tino, sono vai. Nell'altro QTH capico io, tra virgolette. Ah, Tino Muscolo. Sei in mezzo alle salsicce, usi. Quanto lo sai? Dio, yeah. Vabbè ragazzi, dai, ci sentiamo più tardi che devo finire quel lavoro là. Dopo magari riprendo a casa. Ciao, grazie. Anzi, oggi dammi il controllo tu, che sei più lontano. Guarda, questo passaggio qua, guarda dove è però. Che adesso stacco, eh. Adesso è staccato, guarda un po'. Allora, da due passi a 4.5 modulato. Allora, così quanto è? Guarda un po', cosa da due? Da due, queste due. Queste due. Poi vabbè, prima eri 4.5 modulati, come è staccato si è passato a due. È così attaccato, quindi diciamo va bene, la sta rendendo, ok? Non te la sta rendendo di più, hai visto già. Ti aumenta anche la radio. Sì, ti aumenta anche la radio, sì sì. Va bene, va bene. Questi sono, come si chiamano? Sono cinesi, aiutami, denunciati finali. Quindi li ho trovati cinesi e me ne hanno piazzati cinesi. Vabbè, non vendono quanto l'originale, questo credo che sia intorno ai 70 watt. Ma quali? Quelle delle... i finali di che cosa? Dell'alimentata? Del lineare? Sì, della 747, sì. Ah, hanno cambiato i cinesi? No, sono cinesi, li ho fatti arrivare, diciamo sono similari, dai. Ho capito, se l'ho bruciata. Sì, no, metti un paio di quelle cose in camper e quando ci troviamo la voglio assaggiare una. E via Maria. Sì, li ho bruciati, hanno fatto un collegamento, diciamo, un po' gonfio, dai. Hai sbagliato collega? No, era acceso, non mi sono accorto che era acceso e insomma ha fatto la scintilla. Che ragazzo, comunque sì, quei 747 non erano da dare, io gli ho dato 2 o 3, ma hanno fatto male perché vanno bene come lineari. Sì, ne ho uno anche da capo già piazzato, dimmi oggi. Sì, il 22, 23 o 21, 22, insomma, in questo mese c'è il rinnovo della tessera di Torres ed è in quel posto lì, in quel posto dove c'è la tua posizione. Ah, bene, io ti ripeto, io ho un impegno con il calcio di mio figlio, se sono libero scendo tranquillamente, così almeno vedo un po' di gente. Niente, se non devo andare là, capito? Perché io sto facendo un torneo, quindi a meno che ci fermano, non lo so. È un po' così la cosa perché è un po' critica, eh. Vabbè, io ti stavo avvisando, poi per un po' tu. Sì, grazie. Va bene, vi saluto nuovamente, vado a finire un lavoretto, poi arrivo in te. Ci risentiamo a casa. Va bene, va benissimo. Ehi Armino, dai, ci sentiamo, dai, buona serata, buona continuazione, buona carica quando la fai. Avanti, bombolino, bomboletto, bombolone. Kappa, capiamo, lo sai che arrivi veramente bene con quella gran fretta, volo. Qua a casa. Sì, Anton, mi è costata 30 euro, ma ne passa la pena, ero senza antenne. Tanto usare quella autocostruita, quella dei finocchi, che se non andava bene. Ma lascia perdere, che chi c'ha andava, chi c'ha, ma cosa intende? Aveva lo stesso segnale della zona, quindi ho buttato, capito? Va bene, dai, ciao. Cappa, questa funziona bene, io ti sento benissimo. Che pure la Grand Prix è una vita che c'è in giro e funziona veramente bene. Cappa, avanti già. Oh, ciao ragazzi, io vi lascio, vai, che devo fare cosa. Ciao, ci sentiamo, ciao. Ciao Eugenio, ci sentiamo, dai, stammi bene. Avanti Antoine, ancora chose. Cappa, io non ce l'ho mai avuto, cioè ce l'ho avuto una volta la Grand Prix, ma non ce l'avevo, posso permetterla, che babbo era sempre fissato di non piazzare nulla sopra, poi quello per l'altro, e a me aveva voluto in chimica, l'aveva piazzata di l'antenna. Infatti, ci poteva piazzare. piazzare ancora, adesso poi che c'è il prezzo nuovo, la mia piazza è ancora in più. No, ma non me l'ha fottito niente, c'è solito la premessa, boh, finito. Era sempre niente, vera. Non devo neanche andare, che non ci recupero. Non è quello che si era sciolto anche. No, sciolto mai. E non si era sciolta, che aveva attaccato un bel volte si era sciolta, te lo ricordo. A me non mi si è mai sciolta. Come? No, stai sbagliando. Io mi ricordo di sì. Chi è che era sciolta? Nessuno, nessuno. Stavo parlando di un'antenna a roccio di cubulo. No, non si è tipo sciolta. Sì, c'era... Io me lo ricordo bene che si era sciolta. Vabbè, non a te, ma a un'altra persona si era sciolta. Vabbè, là. Riprendi Claudio. Adesso sono Luis. Come sta andando? Si sente ronzio, qualche cosa? No, assolutamente. A me mi si è bucata la mandorla una volta con l'amplificatore. Non so quanti kilowatt. Ne ha girato due e ha fatto un buco e si è incendiata la vetroresina. Capito? A me, ma tanti anni fa, a Carbonazzi con il DL922. Agli altri non lo so. Va bene. No, stavo fatto uscire a Filippo fuori, stavo pulendo. E si è rientrato dentro. Metà antenna, ragazzi, già sciolta. Me ne manca una. Cosa? Oggi l'ha attaccato già a 4 di radio. Me ne manca una da attaccare. Io ne ho collegato 3. Vabbè, 3 ce li ho sotto commutatore d'antenna, quindi però sono sempre stessi microfoni. Sono 3K e 757 della IAS. Il Galaxy non l'ho fatto andare, io ci mando una Giovanna, allora di attaccare l'antenna, perché lì non c'è commutatore. Va bene, cambio. Adesso la sto facendo andare a 12 volte e quel rumore non lo fa, invece a 2.20 il ronzio si sente, forse è il trasformatore, ragione tu. È partito l'alimentatore. Sì, il trasformatore, già, quello che c'è dentro, quello della 2.20. Fanno andare a 12, a me non ronca. A me me lo faceva in pace. Quello che ho dato a Claudio, quello lì mi roncava, mentre a 12 volte non roncava. Questo qua normalmente dovrebbe avere, a quanto mi ha detto Robert, un attacco americano per la, non la 220, ma la 130, quello che cavolo di corrente usa, la 230, non lo so, quella che usava in America. No, il mio era 220, agli altri 2 o 3 ne avevo a 110, a 110 volts, e c'ho cioè il trasformatore a 220 a 110, anche il DAC a 110. Ma il DAC ancora c'è? Allora, perché non ce n'è soldi, non ne ha nessuno soldi per pagare il DAC, te la gira di tu. Sì, non so quanti ce n'è su internet di DAC, sì, però... dall'America, tutti dall'America sono, ce ne sono nuovi, li ho visti su eBay, ma tutti dall'America, cavolo, se non mi fido. Il mio è non nuovo, di più, io l'unica cosa che avevo fatto, gli avevo fatto arrivare il potenziometro nuovo, perché era torto, se ti ricordi, l'avevo portata da un amico e me l'aveva sostituito, e basta. Altre cose non ne hanno fatto, le luci sono originali, le lampadine sono originali, tutto in originale, nuova, non c'è un graffio, perfettamente funzionante. Sì, l'ho visto anch'io dall'America, 700 euro, 650 euro, 550 euro, già l'ho visto, in dollari, però equivalgono a quel prezzo. Io non la do perché non ce l'ho e mi dispiace, anzi qualche giorno la collego perché accende, la tengo sempre accesa per far scaldare le valvole, però l'antenna non ne sto collegando, ma già la facciamo andare. Ma poi le valvole cambiate le avevi perché erano consumate a fronte del ricordo io? Sì, erano anni che non lo usavo e si erano consumate, sì. Accendeva la radio ma erogava la minima potenza, adesso l'ultima volta che l'ho provata aveva quasi 25 watt in AM e 35, quasi 40 in banda laterale, quindi le valvole sono buone ancora. Le valvole, nel caso delle valvole devi stare sempre cambiando, non ha rottura di scatola, mentre invece a transistor no. Lo so, però allora è così. È così, anzi adesso mi riattacco il tanner più 3. Tanner più 3 dovrebbe essere dentro l'armadio, la batteria ce l'ho, le metto il tanner più 3 e la facciamo andare, dai, 10 minuti, vediamo come si comporta, riprende tutto. Ma quello lì è un ibrido, Claudio, non è solo a valvole, ma mi pare che va sia a transistor che a valvole. C'è solo lo stadio finale a valvole il DAC, Gianni, solo lo stadio finale, il resto è tutto transistorizzato. E appunto mi ricordavo così io. Cappa, avanti anzi. Cappa. L'ho visto la radio enorme, e voluco papunilla. Sì, io a villaggio voluco, se mi ragazzi ce lo so che ne punilla. Cappa, e no che no. Minchi mi sopra si può punire, ma oh, lascia perdere. Preferisco qualche altro tipo di radio. Io c'ho il mobile, lo posso mettere, c'è lo spazio e tutto. Se poi non c'è spazio all'interno, c'è anche all'esterno, lo posso mettere anche sopra, in vista, tutto per farlo vedere. Mi basta questo che c'ho, e gli canta in radio da tribunino, che così ti scivo io. Ah, questo che mi ha venduto il Royce a me, vabbè, il continente, non è qua in Sardegna, praticamente aveva tutte le radio di vecchia era, mai usate, messe in vetrina, e poi è diventato radioamatore, sta facendo lo spazio, quindi sta vendendo tutte le radio che aveva, mi ha mandato l'elenco della radio che aveva, e stavo cercando proprio il Ruiz, e anche il DAC se ce l'aveva, ce l'avrei comprato, e invece, anzi, purtroppo il DAC l'aveva dato, ce l'aveva ma l'aveva dato, e ce l'aveva lui, se lui se gliel'ho preso subito, ma non è che me l'ha dato a poco briciolo, e lui se l'ho pagato bene io, è nuovo nuovo, è perché è nuovo, però l'ho pagato. Mi accoppiate? La Puglia! A me come va? Alla grande, va benissimo. Allora sta andando esattamente adesso 10 watt, vediamo appena scaldato le valvole, l'ho appena acceso. 10 watt modulati. È bella radio c'è, sì sì. È bella presente la radio. Bella bella. Gli strumenti sono belli, gli strumenti li rivedi, non avrei bisogno di piccitti, no, che no? Sono belli, sembrano, a me mi dava l'impressione di aver visto uno di quei lineari grossi, ma di quelli da 1000 watt, eccetera, eccetera. Quando l'ho visto la prima volta da Walter, mi sembrava un lineare, infatti gli ho detto, cosa si tratta di? Che lineare si tratta di? No, questo è un baracchino, non sa baracchino, no, questo me lo devi dare, te lo me lo vedi. E lui mi ha detto, guarda, ne ho due, e quello che c'hai tu mi voleva dare, però aveva la mano per la storta, l'ho voluto per quello. Sì, beh, già, la mano per la storta, che pure male. Non l'hai presa, nuova nuova, non c'è un graffio, perfetta, mai stata riparata, mentre invece vedi quella di Marco in riparazione già da tanti anni, non li vogare i beni, capito, questa è nuova nuova, io tramite sempre con la persona che tu sai, abbiamo comprato il potenziometro, gliel'ho portato, me l'ha cambiato, era il potenziometro del Clarife, gliel'ha messo nuovo, e il pomellone è il suo, capito, il suo, perché uno se ci mancava il potenziometro, il pomellone, allora è diverso, non lo trovi, ma i pomelloni sono suoi, belli, tutti cromati, nuova nuova, ma stai scherzando. E allora gli abbiamo messo il potenziometro perché c'aveva la letta storta, aveva preso un colpo, tutto qua, e basta, non gli ho fatto mai niente, le maniglie sono in acciaio inossidabile, cromate, ma cromate che ti puoi specchiare, cazzo, bellissima radio, veramente, ora, mi vede, sta salendo. 15 watt, 15 watt modulati adesso. E quella è una tra le radio mie preferite. Come il Royce, il Galaxy, quella lì, io non è che amo tutte le stazioni base. Ci sono alcune stazioni base che mi piacciono, alcune altre no. e quella è una delle tante radio che a me piace. Ve l'ho detto, questo qua aveva la collezione di radio mai usate, ce l'aveva in vetrina, poi è diventato radioamatore questo qua, e si stava vendendo tutta la collezione, e gli avevo chiesto se c'era il Royce, ha detto guarda, l'ho venduto 2 mesi fa il Royce, se no è male, come si chiama, il DAC, e lui si ce l'ho, e gli ho detto vabbè, quanto me lo dai, qua è nuovo di zecca, non ha niente grafi, nulla, perfetto, perché io li metto in vetrina, io li ho comprati e messi in vetrina, quindi sono nuovi, li ho usati qualche volta, ma usati con le dovute maniere, li ho usati solo io, e poi li ho messi in vetrina per collezione, capito? E fatto sta che, perché praticamente non me l'ha mandato quello perché non ce l'aveva, se no me l'avrei comprato, me l'avrei preso anche 500 euro, le avrei date, mi piace, quando una cosa mi piace, mi piace. Però adesso non lo prendo più, ma cioè, adesso c'ho lui, se mi non se mi piace un bel, come quello che avevo preso a te, però con 3 strumenti il mio. Oh, mi era con 4 strumenti ed è l'unico che mancava l'appello a volte, l'aveva dato a lui. Che strumenti aveva? Il mio c'ha l'osmetro, modulatore e cosa, il segnale, tutto a parte. No, il mio aveva 4 strumenti più l'orologio rosso, me lo ricordo come oggi, ed era una serie limitata, che c'era anche Marco. E Walter che ci aveva ne ha due con 2 strumenti, uno con 3 e ne mancava quello con 4, l'ha volata lui, infatti l'ha volata, se me lo ridava non me l'ha più dato. 4 strumenti, non mi ricordo che cosa c'era. Allora c'era, da me mi ricordo che c'era all'inizio il rosmetro, ah forse ci aveva il, come si chiama, un misuratore di qualcosa ci aveva, non mi ricordo però che cosa, ma me lo ricordo che era 4 strumenti, come questo, come il DAC, 4 strumenti così grandi. Il mio da segnale, modulatore e l'osmetro, e c'è tutto quanto, c'è segnale, modulatore e l'osmetro, tutti e tre, e l'altro non so cosa possa essere l'altro strumento. Non me lo ricordo già, non me lo ricordo, perché l'orologio era rosso digitale, non me lo ricordo, però mi ricordo che era 4 strumenti era, me lo ricordo perché quando l'avevo detto a volte mi ha detto no, quello non ce l'ho, se me lo dai te lo pago oppure facciamo un cambio di qualcosa, e gli avevo dato la differenza, più mi aveva dato il 430 che ce l'ho ancora. Io mi va a fondo scala a me il modulometro quando parlo, fondo scala, è una cosa allucinante, no, ma è bello perché è tutto ben illuminato, c'è gli strumenti verdi, mi piace per quello, poi rosso, verde, è ben illuminato. L'orologio il tuo cos'è, analogico o digitale? Digitale. Rosso, così, come quello ce l'avevo io allora? Fatto. E c'è tutti quanti i tastini sotto l'orologio per memorizzare l'ora, tutto qua. Se tu lo lasci acceso sta sempre funzionando, se no si spegne. E vabbè, ma non lo lascio acceso a questo magorretti, io sono in affitto di luce, mi sono la batteria in casa. Ah, io spegnevo sta cavolata. La corrente si spegnevano tutti quando era carbonanza, ne avevo 15 io di base. Quello lì l'avevo ripreso, l'avevo dato a Roberto. Roberto ce l'ha il DAC, il Royce come quello. Capito? Ce l'avevo anche Roberto, gli avevo dato io, perché ne avevo preso un altro. Ne avevo preso un altro. Vabbè, comunque, già ne ho là di io, già va bene. Già vanno bene queste basi, perché non ne voglio più fare di cose, ne avevo troppe, e le ho tutelate. Avanti, Anto, quindi funziona bene, Mimi. 20 watt adesso sta dando, vedi le valvole sono efficienti. A 25 deve arrivare. Antonio! Solo che quello consuma bene correnti, No, già consuma trasistorizzata. Già l'alimentazione. funziona a 110 neanche a 220, cosa consuma? Amato sì, cosa deve consumare? C'è un assorbimento minimo. Allora guarda, siccome questo c'ha il rosmetro che è uguale a quello della ZG, cioè gli strumenti sono uguali a quelli della ZG, grandi così, quelli grandi. Allora c'è il rosmetro davanti, stazionarie, questa è la mantova 1 e 1. Poi c'ha il plate current, che praticamente cosa vuol dire? Ti segna, allora RF power, che è questo, ecco qua, infatti sta andando con quasi 25 watt, ti segna la potenza dell'uscita, no? Così in RF power, poi in basso plate current, questa c'è l'assorbimento delle valvole. Assorbendo una stronzata, proprio con questi occhiali non vedo una minchia. Comunque una, due, tre tacchette, devo leggere che cosa è, che estensione. Allora ecco, 10, 20, boh, 10 cos'è, mAh, cos'è, boh, non lo so, comunque pochissimo sta su, ti segna tutto già questo. Poi c'è la NL e l'NB, c'è la NL, il filtro per i pericosi e noise blanker anche, io lo tengo sempre inserito. Poi quando l'accendi c'ha stand by, tu accendi la radio e tieni il pulsante in stand by, adesso è in trasmissione, e poi trasmette, lo tieni su in alto. Poi c'ha come gli HF, fast, slow, off, praticamente la velocità dello smitter, capito, per la banda laterale. E poi c'ha squelch, ref gain, il clarifier, AM, USB, LSB e il mic gain, tutto qua. Poi c'è, vabbè, lo strumento è regolabile perché c'è il calibrate, quindi c'è calibrate, vediamo, a zero, eccolo qua. Ecco, adesso io per dire ho messo il calibrate e da 1 e 1, come nel rosmetro, che su fuori nell'apparecchio della radio. Sì, sì, no, questo è perfetto, proprio preciso, ma preciso che non viene bene a dirlo. A volte dico, ma guarda tu, una radio con lo strumento, con rosmetro incorporato, è più preciso di... Allucinante. Vai, Anto. Scappa, ho sentito qualcuno che vuole entrare. Scappa. Ma lo smitter buono è come segnale, va giusto? Questo è il DAC. Ehi, arriva a 9 più 30. Sì, a 9 più 30. Tu adesso eri sempre sopra il più del 20, però 9 più 20. Quando attacchi vai su più del... Scappa, mi ha scappato la mano. Chi è che vuole entrare? Chi è che ha fischiato? Avanti. Ehi, lascialo frusciare. Non devi fatti, io che può frusciare. Vai già. E io con questo qua, Claudio, come arrivo di segnare? Arrivi, come arrivi col coso, col superstar uguale, preciso identico. Scappa. Adesso vediamo un po' quanto mi dà, Mi dà esattamente... sui 6 watt da questo qua. E infatti c'è lo stesso segnale del superstar, uguale, preciso identico. Con l'alternata. Alternata già, ma io? No, Gianni, ho sentito un qualcosa. Alternata. Boh. Questo che è la ventola delle cose, dell'anima. Come? Tu la senti? Boh, prova a mettere la portante senza parlare. Ma appena, boh, non so manco se è alternata, boh. Ma vuol dire la cosa dell'alimentatore, boh. È la ventolina, è una ventola che c'è dell'alimentatore, quella da 50 ampere. Scappa. Ma sai, tipo il mio accetto di alimentatore. Quale? Tipo il mio già, quello cinese. No, il mio è quello con gli strumenti, quello che c'ha Claudio uguale. Guarda, adesso come sta andando, cambio, passo e chiudo. 9 più 30 già. Scappa, fai il bravo. 9.30, come stesso segnale che arrivi al K. Andà bene, va bene, dai. No, volevo vedere se attaccando andava bene. Ah, di lusso, dai. Aspetta, anche aspetta un attimino. Che regolo la stazione a vedere se ne ha. Ora, qua, giù. Se non si muove nemmeno qua. Beh, questo c'è una cosa che praticamente c'è un passaggio di RF power di minima e alta potenza. Cavolo, che è buono, già si vede che va bene. Avanti ti. Sono tornato. Chiappa, bello forte. Vabbè, qua a casa, dai, è differente da là. No, ma va bene anche là, è la verità. Un segnale molto buono. Sono contento. Dino, questo è il Ruiz. Beh, sto usando il Ruiz per farlo girare un po', per farlo scaldare. Bello, 9.35. Chiappa, è bello anche da vedersi, gli strumenti colorati, verdi, sono bellini. Sì, diciamo che quando moduli vai anche quasi a toccare 9.40, poi arrivi a 37, non 40 pieno però. Ma sei più alto, sei già. Come sono più alto? Nel senso, un pochettino di più. Ma di chi? Ti stai aiutando? No! E il Bertino poi tu sei aperto, ce l'hai di fronte. Io no, sono molto più lontano. No, così sono aiutato. Ma te ne è varia. Meglio va. 9.40, sì. Sei 9.40 qua, aiutato. Già va bene, dai. Mattino come arriva? Poi è 9.50 pieno. Modulati non lo guardate se tocchi 60. Prova già. Vai tranquello già, che è una subianetta. Gli so gozzo, gli s'antenna, chi sa bomba? Guarda Tino, guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, sei fisso quasi sotto il 6. Vediamo questo raggio invece aiutato, come va? Andaia. Guarda, così la potenza aiutata, cioè praticamente c'è una modifica di RF power, così, in questo passaggio. Mentre invece, così è la potenza normale. Sì, da 9.15. Gappa. Allora lasciamo stare così, che già va bene. Ciao Tino, buonasera, ben ascoltato. Io sto usando il DAC con circa 80 watt, bene. Ma invece a me fai 9.18 con picchi positivi 9.20, aiutato. Mentre invece normale sì, quasi 9.10, 9.5, vai, abbondante. Sempre modulato il padre. Beh, adesso tra un po' provo pure io a vedere. Lasciamo scaldare. Ma la radio è rimasta invariata, ti è sempre quella, va bene, no? Bella modulazione. Ottima. Tranne più 3 con la DAC, che era tanto che non facevo andare. L'altro giorno stavo andando col Galaxy, questo non ha bimpi e quindi è così. Va bene. Sì, va bene. E beh, cos'è che sta succedendo? Gianni. Via, sono qua. Sto pensando se attaccare l'altro che a lui. Che oggi l'ho fatto girare tutti, dai. Mi manca solo l'Intec e basta. È stato le base Intec. No, quello non farlo girare, che già gli ha girato le barre. Ascolta un attimino già, ma l'amplificatore cos'è? L'RM? Sì, ma qual è? Il 500 o il 300, qual era? 3. Non c'è niente sempre di prenderlo, ma poi sono dentro a 300, vuol dire là? Allora, chicco! Insomma, se 500-300 va bene, quelli che ho capito, pensavo qualcosa in più. Prendi quello che ho io, 507. Ma quello è 24, così è? Sì, te l'ho già detto, quello è 24 MOS. Vabbè, te lo fai, cazzo. Avrai problemi a copiare due alimentatori, no? Lo dici a mister, prende due quelli brutti e li metti uno sopra l'altro, due vascetti e fai 24 volts. Sì, ma non è per quello. Volevo sapere se la potenza finale praticamente raggiungeva o superava quelli che ho io. Se non li supera è inutile che me li prendo, capito? No, per superare quello lì devi prendere l'altro modello, quello a tre ventole. Quello a due ventole intorno ai 600 watt, 550, 600. Io ce li ho tutti e due. Quello a tre ventole va intorno agli 800-850. E siamo come cosa più io. Cappa, guarda per le reti dalle parti tue come sono attaccato. Arrivi 9.25. Già va bene, dai, già bastano. Vabbè, più forte di tutti qua è Gianni, eh? Beh, ci mancherebbe altro, già si va attaccando, però io già vado bene così, quasi 9.20, ottimo. Cosa stavo dicendo, ti? Perché quello che c'hai tu a valore da 800 watt, no? No, 7.50, ma quando è a pieno ritmo, eh? Se no, uno vuole intorno a 500-600. No, papà, io vi devo lasciare che devo andare a mangiare. Ehi, ma io posso salire ancora, cioè da questo passaggio qua, ad esempio, questa è la potenza in love, così è in HI. È salito qualcosa, Tino? Devo essere sincero, no, è rimasta lo stesso identico segnale, sempre quasi 9.20 con picchi a 9.20. Va bene, perché non posso dare ingresso, capito? No? Questo DAC, la regolazione è quella, comunque 10 watt, siamo intorno agli 80-100 watt, però in posizione off, ma è all'interno l'amplificatore, non ce n'è esternamente, quindi c'è il tastino RF Power e praticamente lo sfrutti come potenza superiore, diciamola. Va bene, avanti Gianni. No, io ce li ho tutti e due, il 507 e l'807, capito? Quindi 507 è quello un po' superiore a quello che c'ha Gianni, da intorno ai 500 watt, 450, 500, a volte li supera anche, mentre l'altro picchia 800-850. No, il mio no, lavora, inizia da 250, poi fa qualche passaggio quando scalda, lavora sempre dai 500, 550, 600, poi di nuovo 500 e così via, però se continua a fare passaggi come sto facendo adesso, magari mi sto prolungando più del dovuto, allora inizia a salire, ma sono fatto 750, giustamente poi oltre si ferma, che è una bella bestia. Io ho anche quello HF per dire, però è collegato al K, quello è da 2 kW, però in AM lo puoi andare con potenza intorno ai 50 watt d'ingresso e ti tira fuori intorno ai 600 watt, capito? Mentre invece in banda laterale intorno ai 1600-1700. Capo, no, siccome stavo facendo, Gianni, poi ti rilancio, stavo facendo un pensierino a quello a 500 rotti, volevo chiedere quante watt erogava, perché ma se lo prendo poi alla stessa portata di questo, tanto male che lo prendo, capito? Da considerare che però credo che possa attaccare la KF. Con 0.30, perché io ce l'avevo attaccato alla KF, poi ho preso quello valvolare e allora ce li ho staccati. Guarda, il 507 è quello un po' superiore a quello che c'ha Gianni. È da 600 watt in AM, 600 watt, 550, 600, a 24 volte però. Va bene, Gianni. Gianni adesso sta facendo collegamenti con le varie. No, vabbè, io ne ho ancora due che sono, ce l'è presente il 550, il Falcon 600, ce li ho scollegati, diciamo, quindi non mi ha fatto nulla. No, e vediamo bene. Io ho quello della CTE, per esempio, l'uomo ha fatto la scatola, la CTE, il Jumbo, Jumbo, nuovo, ottimo, anche quello è intorno ai 400 watt, 350 watt, AMFM CCMCV doppio, va molto bene. Il Jumbo c'ho io nell'Aran, l'ultimo modello che avevamo fatto, quello anche con l'esattore di spettro.